Cari amici, anche oggi abbiamo a disposizione il nostro caro Giacomo nel capitolo quarto e primi 10 versetti. Io ci sono stato su tanto a meditarlo perché è ancora denso, però non riuscivo a trovare qualcosa da predicarvi. Mi è venuto in mente semplicemente di leggerlo con attenzione con voi, per fare come risuonare dentro nelle nostre coscienze questi insegnamenti. Comincia dicendo: da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Una domanda interessante, perché è la nostra vita, non solo fuori di casa, ma anche in casa nostra, anche tra coloro che si vogliono bene. Non vengono forse dalle vostre passioni che si agitano dentro le vostre membra? La dico al singolare, siamo pieni di desideri e non riusciamo a possedere. Ha ragione. Noi siamo una massa di desideri, finito uno, ce n'è un altro. Ma non riusciamo a possedere tutto? Uccidete, siete invidiosi, non riuscite a ottenere, siamo sempre in guerra, è vero, è vero, è vero, è vero. Non diciamo di no. Quante volte c'è la pace in casa nostra? Quante volte c'è la dolcezza nei nostri rapporti? Quante volte c'è la tenerezza nelle nostre parrocchie? O quante volte il chiacchiericcio? Non avete perché non chiedete. Ah, non è vero, dice uno, chiediamo. No, no, continua. Chiedete e non ottenete. Perché chiedete male, chiedete per voi, per soddisfare le vostre passioni, cioè i vostri desideri. Oh, cari amici, teniamo in bocca queste frasi, teniamole nel cuore. Non sapete che l'amore per il mondo, la mondanità, non il mondo, è nemico di Dio? Chi vuole essere amico del mondo è nemico di Dio. Oh Signore, Signore, donaci di essere amici tuoi e di non avere la mondanità nel cuore. Fino alla gelosia ci ama lo Spirito che ha fatto abitare in noi. Oh Spirito Santo, sii tu il nostro Maestro interiore. Chi ci sarebbe proprio da dire non ce la faremo mai? Non ce la farà mai il mondo, non ce la farà mai la nostra Italia, non ce la farà mai il mondo. Stiamo combattendo questo Covid che sembra proprio un virus scappato via dai laboratori, stiamo impegnando il mondo intero, ci sono decine, centinaia di milioni di persone infettate e stiamo combattendolo tutti. E poi io mi fermo e penso e so, perché sta scritto, che ci sono i laboratori, ci sono i magazzini delle superpotenze piene di bombe chimiche, piene di agenti patogeni di questo tipo. E dici, ma non ci salveremo più noi. Non ci salveremo più. E il problema è che non sappiamo come venire fuori da questo giro vizioso. Io faccio questi armamenti per dissuadere te, tu fai questi armamenti per dissuadere me. Oh Signore nostro, fino alla gelosia ci ama lo Spirito che ha fatto abitare in noi, ma sembra che non abiti lo Spirito dentro di noi. Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia. E com'è difficile essere umili, sottomettersi. A me viene sempre in mente quella frase di un maestro spirituale che Dio ci dà l'umiltà, ma sempre mescolata con le umiliazioni. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà lontano da voi. Resistere alle tentazioni, resistere alle tentazioni. Digli vattene via, non ti voglio, no, non voglio cedere. Avvicinatevi a Dio e Dio si avvicinerà a voi. Oh, cari amici, io non so cosa vi sto dicendo. Vi sto solo dicendo che io sentirei il desiderio di non parlarvi, ma di tenerli dentro di me queste parole. E le suggerisco anche a voi che facciate così, prendete in mano la scrittura, questo messalino, oppure la Bibbia, capitolo quarto di Giacomo, stiamoci su, ma se non facciamo meditazione da soli, le avremo sentite in chiesa, se siamo andati in chiesa, se no neanche le abbiamo sentite, le sentite dalla mia voce, ma la mia voce viene e va. Ripeto, è come guardarsi allo specchio, ah sì, niente male, va bene, e poi andare via, no. Devi stare davanti allo specchio, devi vedere quella ruga lì e dire non va bene, devi vedere quei capelli lì che sono fuori posto, devi vedere quel foruncolo, quel neo, devi vedere la tua vecchiaia, devi vedere che non sei capace di sorridere, che c'è quella piega alle labbra giù. Davanti allo specchio dobbiamo correggerci. Non appena guardarsi, sì, va bene, guarda, sono a posto, ciao. Dobbiamo meditare, starci su, avvicinatevi a Dio e Dio si avvicinerà a voi. Riconoscete la vostra miseria, fate lutto, piangete, perché le vostre risa, le risa stolte, si cambino in lutto, umiliatevi davanti al Signore e sarà Lui a esaltarvi. Noi facciamo il contrario, noi ci gasiamo, noi ci sentiamo a posto e alla fine la vita ci umilia e allora andiamo in crisi. Oh caro San Giacomo, oh caro Gesù, insegnaci a meditare, insegnaci a tenere tra le mani la tua parola, che è come uno specchio davanti al quale guardarci e correggere le nostre imperfezioni o i nostri gravi difetti. E così sia.